Gesù più che Salomone. Un giorno le folle volevano che Gesù desse una prova di essere un uomo mandato da Dio, ma Gesù, scocciato, rispose: «Questa generazione è malvagia, essa chiede un segno, ma nessun segno le sarà dato se non il segno del profeta Giona. Infatti, come Giona fu un segno per i Niniviti, così anche il figlio dell'uomo sarà un segno per questa generazione. La regina del Mezzodi si leverà nel giudizio con gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché essa venne dagli estremi confini della terra per udire la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone». Luca 11 e 29. La risposta di Gesù ha certamente sorpreso i suoi contemporanei, perché non solo egli si rifiuta di compiere qualche segno, ma prende spunto per dire che era più grande di Salomone. I contemporanei di Gesù conoscevano il fatto storico della regina di Sheba, cioè del Mezzodì. Conoscevano che Salomone è stato l'uomo più sapiente della terra e il più ricco, che ha avuto una gloria come nessun altro ha avuto. Eppure Gesù, riferendosi a se stesso, ha detto che nonostante la propria grandezza Salomone era inferiore a lui. Per comprendere perché Gesù è più grande di Salomone, dobbiamo leggere l'incontro della regina di Mezzodì con Salomone, per poi fare il paragone. Quando la regina di Sheba sentì parlare della fama di Salomone, venne a Gerusalemme per mettere alla prova Salomone con difficili domande, accompagnata da un grandissimo seguito, con cammelli carichi di aromi e con una grande quantità di oro e di pietre preziose. Essa andò da Salomone e parlò con lui di tutto ciò che aveva in cuore. Salomone rispose a tutte le sue domande, e non ci fu cosa alcuna che fosse nascosta a Salomone e che egli non sapesse spiegare. Quando la regina di Sheba vide la sapienza di Salomone e la casa che egli aveva costruito, i cibi della sua mensa, gli alloggi dei suoi servi, il servizio dei suoi camerieri e le loro vesti, i suoi coppieri e le loro vesti, e gli olocausti che egli offriva nella casa dell'Eterno, rimase senza fiato. Disse quindi al re: «Era dunque vero ciò che avevo sentito nel mio paese circa le tue parole e la tua sapienza? Ma non ho creduto a queste cose finché non sono venuta io stessa e non ho visto con i miei occhi. Ebbene, non mi era stato riferito neppure la metà della grandezza della tua sapienza. Tu sorpassi la fama di cui avevo sentito parlare. Beata la tua gente, beati questi tuoi servi che stanno sempre davanti a te e ascoltano la tua sapienza. Sia benedetto l'Eterno, il tuo Dio, che si è compiaciuto di te, mettendoti sul suo trono come re per l'Eterno, il tuo Dio. Poiché il tuo Dio ama Israele e vuole renderlo stabile per sempre, ti ha stabilito re su di loro per esercitare il giudizio e la giustizia». Poi ella donò al re 120 talenti d'oro e una grande quantità di aromi e di pietre preziose. Non vi furono mai più aromi come quelli che la regina di Sheba diede al re Salomone. Il re Salomone diede alla regina di Sheba tutte le cose desiderate che ella chiese, molto di più di ciò che ella aveva portato al re. Poi ella fece ritorno, andando con i suoi servi al suo paese. 2 Cronache 9, 1-13. La regina di Sheba venne da molto lontano per vedere Salomone. Un viaggio a quei tempi non era molto attraente, perché si doveva viaggiare con cammelli esponendosi al caldo e al freddo del deserto. Eppure, il suo desiderio di vedere e ascoltare Salomone era talmente forte che ritenne tutto ciò inferiore. Se Gesù è più grande di Salomone, non vale la pena indirizzare la nostra vita alla ricerca di Gesù, dedicare tempo e energie per conoscerlo? Se una regina si è scomodata dai suoi agi per conoscere un re, quanto più noi possiamo scomodarci per conoscere il Figlio di Dio? La regina di Sheba parlò con Salomone esponendogli tutto ciò che aveva in cuore. Poiché Gesù è più grande di Salomone, perché non aprire il nostro cuore a Gesù e dirgli tutto quello che ci passa per la mente? Religiosi come siamo, noi siamo abituati a presentarci davanti a Gesù Cristo con delle parole preconfezionate, ma egli non ne ha bisogno, perché siamo noi che dobbiamo parlare mentre lui rimane in ascolto. Se noi diciamo qualcosa che non ci appartiene, a lui non interessa. Di forme religiose ne ha fin sopra i capelli. La regina di Sheba mise alla prova Salomone, cioè voleva toccare con mano se era veramente sapiente, come dicevano. Anche con Gesù si può fare lo stesso. Dio non disprezza i nostri dubbi, il nostro desiderio di verificare ciò che sentiamo o vediamo, ma disprezza o allontana con ripugnanza le persone tiepide e indifferenti. Giacomo nella sua lettera ha detto che se qualcuno manca di sapienza, la chieda a Dio che dona a tutti liberamente senza rimproverare, e gli sarà data. Dio non disprezza chi si riconosce, con umiltà, bisognoso. Posso testimoniare che tramite la sua parola Gesù Cristo ha soddisfatto i miei tanti interrogativi. Per alcuni mi ha dato subito una risposta, per altri ci sono voluti molti anni. Per altri sto ancora aspettando una risposta, o qua giù sulla terra, o lassù nel cielo. È vero che non a tutti Dio ha dato la stessa sapienza, ma è anche vero che, poiché i figli di Dio fanno parte di un stesso corpo, è possibile avere una risposta non direttamente, ma tramite altre persone. L'importante non è che io sappia, ma che la Chiesa sappia. La regina di Sheba era fuori di sé dalla meraviglia nel vedere la perfezione di Salomone. Lo stesso non è da meno con Gesù. Quando consideriamo il creato e tutto ciò che vive sulla terra, quando prendiamo coscienza di come siamo fatti, non vi sono parole per esprimere il nostro stupore. E non ci resta che adorare il nostro Creatore Cristo Gesù. Più passano gli anni, più mi rendo conto quanto l'uomo sia dogato nei ragionamenti per affermare che tutto ciò che vediamo sia il risultato di un evento fortuito. Cosa avrebbe detto Salomone se la regina di Sheba avesse messo in dubbio che tutto ciò che vedeva non era il prodotto della sua sapienza? Quando un cuore vuole negare l'evidenza, non vi è nulla che possa convincerlo. Se quando Gesù morì e risuscitò il terzo giorno, i suoi contemporanei negarono il fatto, quanto più oggi le persone trovano delle scuse per negare non solo la sua resurrezione, ma anche la creazione di ogni cosa da parte sua. La regina di Sheba ha lodato Salomone, perché non è possibile tacere quando si è di fronte a qualcosa di meraviglioso. Chi di noi non ha partecipato ai suoi amici la visione di una meravigliosa cascata o di uno stupendo viaggio? Com'è possibile tacere sulla persona di Gesù quando la si conosce personalmente? Quale Salvatore Signore, quando lo si ha come il miglior amico della vita? Non è sufficiente rendersi conto che Lui sia morto in croce per salvare tutti, ma occorre aprire la nostra bocca per lodarlo e gloriarsi di Lui, come sta scritto: chi si glori nel Signore. La regina di Sheba non ha potuto trattenersi nell'esprimere la sua meraviglia e riconoscenza, nel donargli il meglio che aveva. Questo atteggiamento è il normale e schietto risultato di chi vuole esprimere gratitudine. Com'è possibile che un figlio di Dio non abbia una gratitudine pratica nei confronti di Cristo, donandogli il meglio della sua vita? Il meglio della nostra vita non consiste tanto in cose, anche se queste fanno parte, ma siamo noi stessi, il nostro tempo, la nostra volontà, messi al suo servizio. La vera gratitudine non è composta solo da un sentimento, ma si esprime sempre nella praticità delle cose. La regina di Sheba ricevette dal re Salomone tutte le cose desiderate che ella chiese. Questo è il normale risultato di chi incontra un vero e grande re. La regina di Sheba era una regina. Aveva un regno, dei sudditi, era ricca, ma quando incontrò qualcuno più grande di lei si sentì mancante e dovette chiedergli ciò che desiderava. Noi siamo dei re e delle regine perché abbiamo una nostra vita, la gestiamo a nostro piacere, pensiamo di essere autosufficienti e mancanti di nulla. Ma quando incontriamo Gesù Cristo ci rendiamo conto che i nostri tesori non sono nulla in confronto a quello che Lui ci vuole dare. E allora chiediamo, desideriamo essere arricchiti di quella vera ricchezza che nessun ladro può portarci via. Essere figli di Dio significa avere un Padre oltremodo ricco, pronto a donare copiosamente ciò che chiediamo, ma ciò presuppone riconoscere che siamo bisognosi. La regina, benché fosse regina, non si vergognò di chiedere ciò che aveva nel cuore. L'epilogo dell'incontro della regina di Sheba con il re Salomone è che ricevette molto di più di ciò che ella aveva portato al re. Questo non è che un debole esempio dell'epilogo di ognuno che incontra Cristo. È inutile negarlo perché è insito nella nostra vita l'interrogativo a che cosa serve vivere per Gesù. Ho letto la testimonianza di uomini di Dio che alla fine della loro vita, spesa al servizio del regno di Dio nel fare un bilancio, si sono chiesti se ne è valsa la pena. Anche l'apostolo Pietro si è posto questo interrogativo dicendo a Gesù: ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. E Gesù rispose loro: in verità vi dico che non ci è nessuno che abbia lasciato casa o genitori o fratelli o moglie o figli per il regno di Dio che non ne riceva molte volte tanto in questo tempo e nell'età a venire la vita eterna. Luca 18, 28-30. Il premio che Gesù concede a coloro che lo servono abbraccia questa vita e quella futura. Chi pone fede in Cristo, in questa vita non si trova solo, ma scopre la famiglia di Dio sparsa sulla faccia della terra. Questa realtà forse dice poco o niente per chi non è diventato un figlio di Dio, ma per i salvati non vi è consolazione e gioia più grande che di stare insieme con coloro che amano e invocano Gesù. Anzi, se non vi è questa gioia, molto probabilmente non ha realizzato la nuova nascita. Infine, il premio di Gesù abbraccia anche la vita futura. Il nostro grande Re non si è limitato di darci grandissimi doni in questa vita, ma ha provveduto e provvede a prepararci un luogo meraviglioso: stare con Gesù. Mentre la regina di Sheba ha dovuto tornare a casa, il cristiano starà per sempre alla presenza del Re dei Re e contemplare in eterno la sua magnificenza. Sì, vale la pena fare il lungo viaggio nella vita per incontrare il Re dei Re, il Signore dei Signori, egli ci aspetta. Gennaio 2005, Ellero.